Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, che oggi, nonostante la festività di ogni santi, è regolarmente in diretta perché è aperta la borsa, per cui noi viaggiamo sempre di pari passo con il mercato finanziario, oltre che con i nostri temi di servizio e di risparmio e di finanza dedicati ai nostri ascoltatori. Allora, è tornato puntuale, come ogni anno, Comprar Casa Senza Rischi, l'iniziativa di informazione al cittadino sui temi dell'acquisto della casa e del mutuo promossa dal Consiglio Notarile di Milano in collaborazione con il Comune di Milano. I cittadini possono ricevere in questo periodo, oltre alla consulenza personalizzata del notaio, anche un check-up gratuito della casa che comprende la visura catastale dell'immobile, tutti i consigli e le indicazioni su come muoversi per regolarizzare eventuali anomalie o difformità. Le porte dei notai lombardi si aprono domani e rimarranno aperte per tutto il mese di dicembre, ma se le porte dei notai lombardi sono aperte chiaramente solo per i cittadini di questa regione, lo sportello di Salva Danaio è aperto per tutti e noi stamattina, a dispetto della festività, abbiamo chiesto al notaio Domenico De Stefano, presidente del Consiglio Notarile di Milano, di aiutarci ad orientarci nelle novità degli ultimi mesi di cui abbiamo tanto parlato, ma siccome per fortuna, anche se ancora c'è qualche così difficoltà, non è che il mercato si è tornato ad animare come negli anni passati, le compravendite vanno comunque a casa, per cui queste operazioni vanno fatte assolvendo a tutte le normative che si sono appunto anche arricchite di novità negli ultimi mesi. Allora stamattina rifacciamo un po' un punto della situazione per andare a rogito con la casa a posto. Notaio De Stefano, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Eccoci qua, io mi ero già scusata con lui per avergli un pochino rovinato la vacanza, la giornata di pausa, ma insomma mi stava dicendo che è in Liguria, il tempo non è granché, per cui insomma le faccio passare anche magari un'oretta divertente stamattina, notaio. Molto volentieri. Allora, possedere una casa in regola dal punto di vista catastale, energetico e della sicurezza sta diventando sempre più importante, in molti casi obbligatorio per evitare difficoltà, ma anche pesanti sanzioni in caso di compravendite, donazioni o di divisioni ereditarie, per cui stamattina è bene fare un punto della situazione. Chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666. La borsa, abbiamo già dato come sempre qualche anticipazione nel giornale radio, borsa ballerina stamane, pensate che Londra, Parigi e Francoforte erano partite con un rialzo di quasi un punto, anche di oltre un punto, è successo a Londra. Anche Milano era positiva, è arrivata a guadagnare in avvio oltre mezzo punto percentuale. Poi c'è stato un cambio di umore. Sono andate molto bene stamattina anche le piazze asiatiche, perché è arrivato un dato sull'andamento dell'attività manifatturiera cinese che è risultata appunto in forte espansione. Questo stamattina ha aiutato tutte le borse appunto asiatiche a salire parecchio. Shanghai più 2,5%, anche l'indice australiano è cresciuto dello 0,8%, quello coreano più 1,7%, Hong Kong più 2,4%, il Nikkei ha chiuso negativamente, l'Europa, vi dicevo, ballerina. Adesso c'è Parigi che, dopo essere scesa di mezzo punto, adesso guadagna lo 0,08%, Francoforte più 0,39%, Londra più 0,28%, Milano meno 0,37%. I titoli più acquistati a Piazza Affari stamane: Tenaris più 1,54%. Ansaldo più 0,9, Terna più 0,8, STM più 0,4%, mentre fioccano le prese di profitto su Fondiaria meno 3,81%. Ricordiamo quello che è successo venerdì scorso, quando è stato annunciato che l'azionista di riferimento Premafin ha registrato l'ingresso nel capitale da parte degli francesi di Groupama, un'operazione appunto che ha animato notevolmente la seduta venerdì scorso, con i titoli sia Fondiaria, Fonsai che Premafin in rialzo molto vistoso. Oggi Fondiaria perde il 3,8%. Tra gli altri cali, Geox meno 1,45%, CIR meno 1,10%, ribasso di un punto anche per Unicredit, UbiBanca, Luxottica, Intesa San Paolo. Quindi vedo già che è un'altra giornata abbastanza difficile per le banche. Euro su dollaro 1,39,53. Chiudiamo la parentesi di borsa per andare al tema di questa mattina e ritorniamo sul comprar casa senza rischi. Comprare casa è un passo estremamente importante. Ecco perché, una volta individuato ciò che soddisfa le proprie esigenze e i propri gusti, è bene prepararsi all'acquisto in modo tale da evitare errori. Innanzitutto, è sempre consigliabile rivolgersi ad un agente di fiducia. Questo, tra l'altro, perché il primo pagamento è effettuato proprio all'agente, che tiene in deposito la caparra per poi consegnarla al venditore solo nel caso in cui quest'ultimo accetti la proposta di acquisto. È bene prendersi tutto il tempo necessario per leggere attentamente la proposta e farla eventualmente verificare da un professionista, anche dal notaio, perché quasi sempre, infatti, la proposta di acquisto è irrevocabile. In poche parole, di fronte all'accettazione da parte del venditore, il contratto è già concluso e quindi non è più possibile per il compratore tornare sui propri passi. Bisogna poi verificare che la proposta contenga la dichiarazione di chi vende in merito all'assenza di vincoli sul bene o l'indicazione dell'esistenza di un'ipoteca e la dichiarazione del venditore sulla conformità urbanistica della casa, in modo che il compratore abbia certezza che non si tratti di un immobile in tutto o in parte abusivo. Infine, è necessaria la dichiarazione sullo stato degli impianti elettrici e di riscaldamento. Per quanto riguarda invece il preliminare di vendita o compromesso, anche qui ci troviamo nella situazione in cui il compratore si assume l'obbligo di comprare e pagare un prezzo al venditore, così come quest'ultimo si impegna a sua volta a vendere. È sempre preferibile, quindi, non fare da sé ma rivolgersi per tempo a un professionista del settore. Una novità importante di quest'anno riguarda infine il rogito. Dallo scorso luglio, infatti, quest'ultimo, per legge, deve contenere l'identificazione catastale dell'edificio in questione, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi di questa mattina. Vedo già che ci fanno compagnia senza vacanza in molti questa mattina, che sono pronti appunto a presentarci i propri casi. Però, notaio De Stefano, la prima cosa che volevo raccontare, particolarmente ai cittadini lombardi che saranno direttamente interessati e potranno fruire di questa iniziativa, come si articolerà quest'anno il vostro comprar casa senza rischi? Dunque, ci sono una serie di manifestazioni pubbliche, cioè presenza di notai presso alcuni dei comuni lombardi, e i notai espongono quali sono le principali tematiche, molto ben illustrate peraltro nella vostra scheda, e danno risposte ai quesiti. In più, come sempre, attraverso il sito www.comprarcasasenzarischi.it è possibile prenotare 1000 appuntamenti di consulenza preventiva gratuita presso i notai che si trovano su questo sito. Benissimo, le faccio subito, poi andiamo appunto a tutte tutti gli aspetti che abbiamo già anticipato nella nostra scheda e su tutti quegli adempimenti che dobbiamo fare prima di presentarci al rogito e nei quali ci può naturalmente seguire il notaio, perché, e qui ritorno a sgombrare anche il campo da un equivoco, da un pregiudizio che sia spesso, con il quale ci siamo spesso scontrati o incontrati quando facciamo trasmissioni di questo tipo. Il notaio non è la persona che conosciamo solamente la giornata in cui stipuliamo il rogito, quindi formalmente si conclude l'atto della compravendita. Notaio, magari chiariamolo subito questo aspetto. Anche l'iniziativa vuole dimostrare questo. È la persona che ci può seguire anche nei passi preventivi all'acquisto della casa. Anche senza aver messo nero su bianco alcunché, già si può fare una chiacchierata con un notaio di fiducia per capire se la casa che stiamo acquistando abbia tutte le carte in regola per far concludere felicemente una trattativa, una compravendita. Certamente sì, è proprio uno degli scopi di questa iniziativa, che ormai è diventata un'abitudine, è quello di far presente alla cittadinanza, soprattutto quella delle grandi città, perché in provincia c'è più dimestichezza con lo studio del notaio, far presente che il notaio è non solo quella persona che autenticherà il nostro rogito o riceverà il nostro rogito, ma è anche il notaio, il suo studio, la persona, lo studio, dove possiamo trovare la consulenza per orientarci. E diciamo che la manifestazione di quest'anno mette l'accento su un nuovo aspetto, poi diremo nuovo perché, che è quello di verificare non solo la casa quando la si compra, ma anche da parte del venditore, prima di avventurarsi nell'accettare proposte e soprattutto nell'accettare caparre, verificare se la casa che stiamo vendendo è in ordine. Infatti, perché c'è l'altro anche, come dire, malinteso di fondo, è che tutti i nuovi oneri che sono stati introdotti anche dalle normative recenti siano a carico dell'acquirente della casa, invece non è così. Il venditore deve naturalmente consegnare una casa a posto, poi che se ci si possa anche mettere d'accordo in qualche caso è un altro discorso e vedremo in quali casi è possibile, naturalmente nel limite sempre ovviamente, anzi ottemperando al lecito naturalmente, però ricordiamoci appunto che è un aspetto molto, molto importante il fatto che non tutti gli oneri nuovi di cui discuteremo questa mattina sono a carico dell'acquirente dell'abitazione, il venditore, del venditore. Allora 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Comincerei subito a sentire gli ascoltatori, notaio De Stefano, cominciando con un ascoltatore che ci scrive, che ci racconta che sta acquistando la sua prima casa nuova in fase di ultimazione da costruttore. Per quanto riguarda i controlli preventivi per i quali conviene rivolgersi al notaio, posso rivolgermi al notaio del costruttore o posso rivolgermi anche ad altri notai? Non per sfiducia, ci spiega Giuseppe, ma sa com'è, prevenire meglio che curare. Magari il notaio del quale si è avvalso il costruttore di un intero edificio forse conosce meglio un po' tutta la pratica, però non è un obbligo utilizzare questo professionista notaio, credo almeno. Non è un obbligo, si tratta di intendersi su qual è il tipo di controllo che si vuole fare. Certamente ci si può rivolgere anche a un notaio di fiducia, anzi è consigliabile rivolgersi a un notaio di fiducia con il quale si ha già magari un rapporto di conoscenza. Mm. Tra l'altro, sull'aspetto dell'allineamento catastale del quale andremo a parlare, della dichiarazione di conformità catastale che è stata introdotta dalla manovra finanziaria estiva obbligatoria dal 31 luglio, ci sono molti ascoltatori che ci stanno chiedendo appunto come verificare se dopo aver eseguito un lavoro la casa sia in regola o meno, e molti utilizzano, notaio De Stefano, questo termine. Sono fuori legge? Adesso addirittura fuori legge non direi di utilizzare questa parola, però in sostanza che cosa comporta non comunicare al catasto la variazione di destinazione d'uso magari di un'abitazione? Beh, ecco, l'esempio della variazione di destinazione d'uso è un esempio di quelli in cui si va a finire fuori legge. La mancata comunicazione è rilevante e quindi se ho modificato la destinazione d'uso, naturalmente nel presupposto che questa variazione potesse essere fatta o comunque sia stata assentita da parte degli organi comunali, devo anche comunicare al catasto. Se non ho comunicato al catasto, fino a quando non avrò comunicato al catasto, non posso vendere. Allora, andiamo a sentire Paola dalla provincia di Bergamo che inaugura le telefonate in diretta. Paola, buona giornata. Buongiorno anche voi e grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie. Chiamavo per questo. Se io ho intenzione di acquistare una casa usata, quindi non da costruttore, ma da un privato e uso come tramite l'agenzia, sì, e questa casa è stata ristrutturata, io posso chiedere, cioè visto che mi rivolgo alla... Paola, che peccato, l'abbiamo persa. Allora, qui c'era un'intermediazione di un'agenzia, riusciamo a recuperarla. Adesso Gaia recupera appunto questa telefonata. Allora, ricordiamo un po' la ratio, notaio De Stefano, dell'introduzione recente di quella che abbiamo più volte definito dichiarazione di conformità catastale. In sostanza, anche l'amministrazione fiscale, che tipo di obiettivo ha avuto introducendo questa normativa? In estrema sintesi, il caso serve a censire le case, il censimento delle case serve a far pagare le tasse, quindi le case devono essere presenti in catasto e devono essere presenti per quella che è la loro consistenza e per quello che è la loro destinazione. Tutte le volte che c'è una variazione o di consistenza o di destinazione devo fare una denuncia al catasto, così che il catasto aggiornerà la rendita e io sarò in per il pagamento delle tasse. Certo, quindi attribuire anche l'esatto valore all'immobile. È proprio questa, cioè è stato stabilito dal 1° di luglio che quando non c'è allineamento tra lo stato e le risultanze del catasto, prima di vendere questo allineamento deve essere fatto. Questo naturalmente per le cose di un certo rilievo, se sposto di 20 centimetri una porta da destra a sinistra, ecco, in questo caso posso benissimo vendere la casa ugualmente. Certo, però anche lì magari deve esserci qualche professionista in grado di dirci: per questo tipo di lavoro che hai eseguito è chiaro che devi fare l'allineamento catastale, per quest'altro lavoro, quindi se si rifà il bagno, adesso non cadiamo nel ridicolo, questo lo dico a qualche ascoltatore che ci sta scrivendo, non è necessario fare un'operazione di questo tipo. Se rifare il bagno significa averlo spostato da un'ala ad un'altra dell'appartamento, allora in questo caso il discorso cambia. 800 24 00 24, abbiamo recuperato Paola, ma io adesso devo andare in pausa e quindi la sentiamo tra pochissimo. Salva Danaio. Eccoci ritrovati in diretta a Salva Danaio. Questa mattina abbiamo preso lo spunto da un'iniziativa che ormai da qualche anno viene condotta dal Consiglio Notarile di Milano, e cioè l'iniziativa Comprar Casa Senza Rischi, grazie alla quale molti studi di professionisti, appunto di notai lombardi, si aprono per permettere ai cittadini di anche eventualmente fare, se lo si vorrà, un check-up gratuito della casa, ma di avere anche tutte quelle indicazioni che sono necessarie se si fosse in procinto di fare l'acquisto o una vendita di un'abitazione. E magari allora, siccome è sempre bene farsi una chiacchierata preventiva con un professionista, in questo mese ce ne sono molti disponibili appunto per molti cittadini. Con noi quest'oggi Domenico De Stefano, il notaio De Stefano, presidente del Consiglio Notarile di Milano, che sta già cominciando a rispondere alle domande degli ascoltatori all'800 24 00 24. La casa è un tema molto vasto, come sapete, e sul quale intervengono normative in continuazione, l'ultima della quale l'introduzione da parte della manovra finanziaria estiva della cosiddetta dichiarazione di conformità catastale, che è necessario appunto. Notaio De Stefano, lo diciamo subito, è un atto obbligatorio da presentare durante un trasferimento oneroso di un immobile, quindi nel momento in cui si fa il rogito questa dichiarazione di conformità catastale voi notai la dovete avere sulla vostra scrivania? Sì, è una dichiarazione che il venditore deve fare al momento del rogito e che viene inserita nell'atto. E quanto costa farla, notaio? Lei lo sa? Anche se non è ovviamente Dunque, se la casa è allineata, cioè se la situazione di fatto corrisponde alla situazione che c'è in catasto, sia come planimetria che come dati catastali, non costa nulla, non c'è bisogno di fare nulla. Quello che costa è allineare quando la situazione di fatto non corrisponde alla situazione che risulta al catasto. E perché in realtà io sul vostro comunicato stampa Comprar Casa Senza Rischi ho visto che vi siete un po' sbilanciati anche sui costi e i tempi dell'aggiornamento della scheda catastale. Si parla di circa 450 euro, che mediamente, siccome sono in carico al venditore, così magari vale la pena dare. Che ne dice? Sì, il costo quando c'è bisogno di fare l'allineamento è più o meno quello, e i tempi possono essere nell'ordine, a seconda naturalmente degli uffici provinciali del catasto, ma insomma possono essere nell'ordine da una settimana minimo a 2-3 settimane massimo. Ecco, quindi non è, diciamo, una questione che fa magari eventualmente litigare compratore e venditore su chi deve farla o meno, è pacifico che è il venditore che deve consegnare questa documentazione all'acquirente, notaio? Assolutamente sì, infatti noi proponiamo il check-up della casa preventivo proprio per evitare discussioni dell'ultimo momento, ma è pacifico che è il venditore che deve presentare i documenti in ordine per vendere. Benissimo, allora abbiamo ripescato Paola da Bergamo. Paola, eccoci, buongiorno. Buongiorno, complimenti innanzitutto per la trasmissione, ringrazio lei il notaio perché in parte avete già risposto a quello che era il mio quesito. Ce lo ripeta. Che cosa devo pretendere per arrivare sicura e senza problemi al rogito, per cui si è parlato di conformità dello stato di fatto ai dati catastali e di certificazione di conformità degli impianti elettrici, sanitari, idraulici, eccetera. Ma chiedevo questo: se io acquisto una casa tramite agenzia ed è una casa non da impresa, cioè da privato, l'agenzia, cioè, si deve limitare a farmi solo da mediatrice o mi deve anche tutelare, cioè per portarmi al rogito in modo tale che io possa arrivare al rogito con tutto quanto mi deve essere consegnato dal venditore? Cioè, è lei che si fa mediatrice tra me e il venditore per sollecitare il venditore a prepararmi tutto quanto necessario? Paola, guardi, altrimenti lei fa saltare la trattativa e sono provvigioni in meno per l'agenzia. Io credo che abbia, certo, un conto sono gli obblighi, un conto è, come dire, l'interesse che l'agenzia ha affinché la trattativa si concluda felicemente. Rimanga un attimo e sentiamo magari il notaio, poi faremo anche il punto proprio su tutta la documentazione da portare al rogito e rifacciamo l'ABC, perché è sempre necessario, mi sembra, anche se l'abbiamo ribadito nella scheda. Però Che tipo di obblighi ha l'agenzia in questo, notaio? Mi sembra una domanda molto interessante. Dunque, ha un obbligo di diligenza nel mettere a contatto le parti, mettere a contatto in termini tali per cui possano concludere il loro accordo. Naturalmente, siccome i casi della vita, tutte le volte che si vende una casa, sono pressoché infiniti, può essere che, sia pure comportandosi con buona volontà, all'agenzia sfugga un particolare che poi emerge in sede di rogito. E naturalmente a questo punto si tratterà di vedere se questo particolare che è sfuggito con una ordinaria diligenza poteva essere intercettato. Mi spiego. Certamente le agenzie ormai hanno il dovere di verificare che il disegno che è depositato in catasto sia conforme allo stato di fatto, e questa è un'operazione che 99 volte è abbastanza semplice. Questo le agenzie lo fanno. Certo, può esserci quel caso 1 su 100 in cui con un controllo un po' superficiale qualche dettaglio, magari importante, sfugge. L'altro grande tema del quale abbiamo tanto discusso negli ultimi mesi, notaio De Stefano, è quello dell'attestato di certificazione energetica, che è quel documento che classifica le prestazioni e l'efficienza di un edificio, gli attribuisce una fra 7 diverse classi, dalla A alla G, e quindi permette anche i dovuti confronti fra l'efficienza energetica di un'abitazione rispetto ad un'altra. Noi ne parliamo molto perché in genere questo attestato è necessario per poter ottenere dal fisco la restituzione di quel famoso 55% di risparmio, se per esempio si rifanno gli infissi, se si rifà il sistema di riscaldamento. Ma ai fini della compravendita questo attestato è obbligatorio o no? Non è, la risposta non è uguale in tutte le regioni d'Italia. In Lombardia per esempio è obbligatorio, ed è obbligatorio allegarlo al rogito, quindi è indispensabile che sia presente sul tavolo del notaio nel momento in cui le parti firmano il rogito. Altrove è, in altre regioni d'Italia è obbligatorio, ma non c'è l'obbligo di allegarlo fisicamente. Al trasferimento oneroso, sì. Ecco, e questo consente alle parti di concordare, per esempio, una dilazione nella redazione di questa attestazione a un momento successivo. Qualche volta può anche non essere sbagliato, mi spiego. Io compro una casa che è in condizioni pessime, quasi diroccata o comunque molto molto malmessa, sicuro che la sua qualità energetica è la peggiore, ma non mi interessa nulla di avere questo certificato, perché sono consapevole di questo, la compro per metterla a posto e farò fare l'attestato dopo che io, acquirente, avrò fatto i lavori. Certo. Allora, ritorniamo invece al tema della dichiarazione di conformità catastale. Allora, sentiamo un altro paio di ascoltatori e poi ci sono tanti messaggi. C'è l'ascoltatore che si chiede appunto se sia fuori legge o meno, e adesso la leggiamo anche la sua osservazione. Prima però Alessandro dalla provincia di Milano. Sì, buongiorno. Io chiamavo sempre per questo discorso della coerenza tra i documenti depositati e la situazione reale. Se io vado ad acquistare un appartamento e so che non c'è coerenza tra i documenti e la situazione reale, per esempio manca l'antibagno, però nello stesso tempo io so che una volta entrato in questo appartamento farò una ristrutturazione totale dell'appartamento, è necessario fare le due regolarizzazioni, cioè farla fare a chi vende prima che venda a me e poi farla io successivamente una volta che ho acquistato, oppure è sufficiente fare una dichiarazione che sono consapevole che non c'è coerenza quando acquisto, e successivamente farò la mia regolarizzazione. Sanerò in sostanza questa situazione. Grazie Alessandro, anche la sua è una domanda molto interessante, notaio De Stefano, insomma, mettendo che questo ascoltatore sia venuto così gratuitamente a fare un check-up gratuito della sua situazione in uno dei vostri studi notarili qui in Lombardia, che cosa risponderebbe? Rispondo che purtroppo in casi come questi è necessario fare due allineamenti catastali. La norma è relativamente nuova, quindi può essere anche che nel tempo cambi, però attualmente se non c'è allineamento catastale non si può fare il rogito. E quindi Alessandro, ci dispiace, però ecco, in questo caso l'allineamento catastale, la prima operazione deve farla, immagino, il venditore che vende la casa senza antibagno appunto ad Alessandro. Eventualmente successivamente Alessandro si incarica della ristrutturazione, in quel caso spetterà a lui fare il nuovo allineamento. Quindi no, perché credo che ad Alessandro interessasse capire anche, insomma, quanto deve spendere per fare tutto questo. Sì, esattamente, l'allineamento al momento del rogito compete al venditore, per quello che succede dopo compete all'acquirente. Però attenzione, l'esempio che stava facendo l'ascoltatore è un esempio di quelli delicati e scivolosi, perché secondo alcuni regolamenti edilizi l'antibagno è obbligatorio, quindi non è solo un problema di allineamento catastale se c'è un bagno senza antibagno, per esempio direttamente collegato con la cucina. Quindi ecco, bisogna vedere anche che tipo di immobile sta comprando, ecco, che magari è... va bene. Allora, dunque, l'ascoltatore che si reputa fuori regge, lui dice: io ho fatto una camera in quello che prima era un open space, senza comunicarlo all'ufficio competente, immaginiamo che sia il catasto l'ufficio competente a cui si riferisce. Poi lo ribadisce ancora: io ho fatto fare questa camera in questo open space dove vivo, non voglio vendere, ma che cosa rischio? Dei controlli per caso, notaio De Stefano? Quindi ancora noi stiamo parlando di tutti gli adempimenti necessari ai fini di concludere una compravendita, ma in caso in cui non si voglia vendere ed è stato fatto una variazione all'interno dell'abitazione, comunque al catasto va fatta la comunicazione? Dunque, qui forse bisogna fare un passo indietro e fermarsi per dire che ora ci occupiamo tanto del catasto perché è normativa nuova in vigore dal 1° di luglio. Ma i casi come quello di cui sta parlando il nostro ascoltatore non riguardano solo la conformità catastale, ma prima di tutto la conformità urbanistica. Se l'open space di cui stiamo parlando è quello che si chiama anche loft, cioè è una porzione di un fabbricato con una destinazione diversa, tipicamente laboratorio artigianale, nel quale è stata fatta una camera da letto, in realtà forse stiamo destinando uno spazio che ha una certa destinazione appunto urbanistica a una destinazione diversa. Questo può essere davvero contralegge e davvero potrebbe essere che intervengono controlli da parte dell'autorità comunale. E allora magari facciamo, se questo ascoltatore abita in qualche zona del Milanese, si faccia un giro in qualche studio notarile per capire come deve fare per sistemare la sua situazione ed evitare eventualmente qualche sanzione qualora questi controlli arrivassero. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi. Prima di ascoltare Claudio, un altro ascoltatore da Bergamo, e Lamberto da Roma, via libera. Salva Danaio. E ritorniamo alle domande dei nostri ascoltatori sulle tematiche di oggi. Comprar casa senza rischi, 800 24 0024. Claudio da Bergamo, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie Claudio. Ma non, la mia è una casa comprata un tempo fa. Adesso, siccome stavo immaginando di fare un passo per i miei figli in futuro, 62 anni, di intestarla a loro, sono andato al catasto, perché a volte può capitare che possono venire fuori delle incongruenze. Questo atto è stato fatto nel 91, avevo acquistato questo appartamento e mi hanno detto che in realtà risulta ancora intestata ai vecchi proprietari. Allora io sono andato dal notaio con cui avevo fatto l'atto e lui mi fa: guardi che noi avevamo comunicato tutti i dati per fare la voltura, non è colpa nostra. A questo punto io domando io cosa posso fare. Infatti, di fatto, poi ho sempre pagato naturalmente tutte queste cose. Ma sicuramente per farle pagare le tasse, Claudio, la trovano ed è tutto regolare. Poi però magari quando serve qualcosa a lei si trova qualche incongruenza, no? Sa com'è. Claudio, attenda lì, sentiamo un po' il notaio De Stefano. Com'è possibile che addirittura per un atto che risale al 91, notaio De Stefano, qua risulti che la casa sia intestata addirittura ai proprietari precedenti? E soprattutto quanto è grave, quanto è seria questa situazione e cosa può succedere a Claudio, che adesso deve fare anche vorrebbe intestare questa abitazione ai figli? Sì, può succedere e non deve stupire il fatto che sia più frequente questo si chiama tecnicamente mancato allineamento soggettivo, cioè in catasto non corrispondono non i dati dell'immobile, ma non corrispondono i dati del proprietario. Paradossalmente è più facile che capiti per situazioni risalenti rispetto a quelle recenti, perché per quelle recenti da quasi un decennio a questa parte è l'informatica che la fa da padrona e quindi si volturano, così si dice tecnicamente, le intestazioni praticamente in tempo reale. In tempo reale, invece nel 91 ancora gli amanuensi lavoravano. Esattamente, ecco, esattamente. Si può essere perso qualcosa, però il nostro ascoltatore non si deve preoccupare di tanto, perché semplicemente portando una copia del suo rogito al catasto, chiedere l'allineamento, così come lo può chiedere verso un professionista di sua fiducia, che può essere un geometra piuttosto che un notario. Qualche ufficio a Bergamo in questi giorni c'è dei vostri per fare un check-up gratuito della situazione di Claudio, notaio? Oppure siamo... Sì, sicuramente sì, può sentire attraverso il consiglio notarile di Bergamo e avrà, troverà sicuramente qualcuno. Benissimo, per fare questo allineamento soggettivo in questo caso. Lamberto dalla provincia di Roma. Pronto? Lamberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, io mi trovo in questa situazione. Mia figlia ha acquistato una casa su una quadri familiare circa 10 anni fa e ha fatto il rogito regolare presso il costruttore con un notaio e allegando delle planimetrie che sono esattamente corrispondenti alla realtà della casa. Successivamente, dovendo fare un atto, una richiesta di una modifica lì al comune, gli hanno detto che la situazione catastale non è, diciamo, uguale a quanto risulta nella licenza edilizia del comune e quindi quella casa in parte era da ritenersi abusiva. Ah, pure? Cioè, neanche disallineata, non è neanche sanabile. Lamberto, io sono basita, qua qualche volta veramente qualche costruttore, vabbè, notaio De Stefano. Questa è una situazione molto grave e bisogna dire che questa situazione contra legge, questa sì, è sicuramente ascrivibile a qualcuno professionista che o ha firmato il progetto e ne ha realizzato un altro, direttore lavori, oppure ha fatto una planimetria catastale non corrispondente al vero. Sono tutte e due professionisti che semplicemente approfondendo la questione si può identificare e denunciare. Quindi il nostro ascoltatore, se vuole avere soddisfazione delle sue ragioni, può seguire questo percorso, vedere chi era il direttore dei lavori e vedere chi è il tecnico che ha firmato le planimetrie in catasto difformi rispetto allo stato. Anche perché adesso poi, notaio, non so se le due questioni si legano, almeno se la questione dell'ascoltatore di Roma si lega con quest'altra faccenda che è quella dell'emersione delle cosiddette case fantasma, no? C'è tempo per la regolarizzazione entro la fine dell'anno e addirittura lui ha una situazione di abusiva, gli è stato detto. Allora l'emersione delle case fantasma consiste nella emersione delle case regolari dal punto di vista urbanistico ma non regolari dal punto di vista catastale. Questo, anche questo non avrebbe mai dovuto succedere, ma può essere successo ed è da considerare un peccato veniale, cioè anche lavori di manutenzione o manutenzione straordinaria fatti in casa e poi non aggiornati in catasto. L'esempio tipico è quello di aver dotato l'appartamento di un secondo bagno, cosa che può determinare una variazione della rendita catastale. Quindi qualcuno in un modo o nell'altro potrebbe essersene dimenticato. Per case fantasma invece bisogna intendere le case nemmeno mai denunciate al catasto e queste è improbabile che siano case regolari dal punto di vista urbanistico, anche perché ormai da un po' di anni al direttore lavori, quando comunica al comune la fine dei lavori, incombe l'obbligo di fare anche l'accatastamento. Notaio De Stefano, Alessandra ci scrive: il mio notaio vuole il certificato di agibilità di un appartamento del 1955. Il documento non c'è. Questo ce lo racconta. Dove si può recuperare questo certificato per un appartamento che è anche piuttosto datato? Dunque, questo è un problema che qualche volta non ha soluzione, nel senso che può essere davvero umanamente impossibile recuperare l'agibilità di un appartamento costruito nel 1955. E allora questo notaio lo saprà esattamente come lei, perché lo pretende secondo lei dalla nostra ascoltatrice? Perché probabilmente è in una situazione nella quale il collega è in condizione di sapere che, sia pure con un certo sforzo, a questo si può arrivare. Stavo per dire che il Comune di Milano mette in campo tutte le sue idee per recuperare situazioni tipo... Non tutti i comuni sono in condizioni di poterlo fare. Benissimo. Quindi Alessandra, insomma, evidentemente si faccia anche dare il canale giusto per poter... È il comune, in ogni caso, mi pare di capire, che possa rilasciare questo certificato, no, notaio? Sì, non è tanto semplice in certe situazioni, perché bisogna recuperare il progetto originale, i cosiddetti piani di fabbrica e via di questo passo. E poi ci sono anche alcune prescrizioni di carattere tecnico e certificazioni tecniche che a distanza di quasi 60 anni può essere davvero molto problematico. No, però siccome mi aveva colpito questa sua osservazione e diceva il notaio, se pretende questo certificato, è evidente che questa situazione può far ricostruire il percorso. Dovrebbe sapere che non è una cosa impossibile. Benissimo, e quindi Alessandra insista magari con lui e si faccia dire come fare, insomma, che faccia il notaio a 360, oppure? Ecco, oppure, perché questo anche può succedere, io faccio il notaio a Milano, non le so dire in quali condizioni è allo stato attuale il comune di Reggio Calabria piuttosto che quello di Bolzano in questo momento. Quindi se fosse mai in Lombardia potrebbe rivolgersi appunto a uno dei nostri appuntamenti di consulenza per vedere se il suo appartamento è tra quelli, ove fosse in Lombardia, per i quali sperare di riuscire ad dopo 55 benissimo anni. Allora guardi, anche il suo telefono comincia già a dare segni di cedimento, forse ha capito che siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione, notaio. Però riusciamo a sentire Maria dalla provincia di Milano. Maria, benvenuta. Buongiorno a voi e grazie. Una domanda velocissima. Grazie. Abbiamo donato io e mio marito un appartamento a uno dei miei figli. Lui dopo ha eliminato la porta che metteva in comunicazione la sala, diciamo il soggiorno, con la cucina, e ha creato un open space. Quindi ha tolto una porta e ha un pochino allargato i muri, ovviamente, cioè ha allargato lo spazio, l'apertura. Questa è una cosa da comunicare, cioè dobbiamo fare una DIA, dobbiamo fare una variazione di scheda catastale o nulla finché lui la venderà? Benissimo, se la venderà. Grazie Maria, grazie. Questo è frutto di una donazione, notaio De Stefano. Sicuramente fino a quando non la vende non c'è bisogno di fare nulla, perché una variazione di questo tipo non è di quelle che possono determinare una variazione della rendita catastale. Nel momento in cui decidessero di venderla, a parte le tematiche che riguardano la donazione, ma lasciamo perdere, a parte questo, io ritengo che anche in questo caso non ci sarà bisogno di fare variazioni catastali. Perché non voleva introdurre il tema della donazione, che non ha adesso magari... Cioè... Perché è un discorso spinoso, spesso si avvengono donazioni dai genitori ai figli nel presupposto che quella casa donata dai genitori ai figli sarà la casa dei figli per sempre. Poi noi sappiamo che le donazioni, essendo considerate anticipo di successione, possono essere messe in discussione dopo la dipartita dei genitori. Notaio, non apriamo questa parentesi perché è lunghissima e io devo chiudere. Ci organizzeremo per un'altra puntata solo su questo tema, che ne dice? Volentieri. Grazie al notaio De Stefano, presidente del Consiglio Notarile di Milano. Salva Danaio torna domani. Buona giornata a tutti.